con il nuovo palinsesto di Blu Radio Veneto troviamo nuove stagioni anche di alcune nostre rubriche. Arriva e ritorna in studio Emanuele Cenghiaro con la rubrica Il Quadrifoglio per parlare di agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, stili di vita. Ripartiamo proprio dalla terra, dall'agricoltura e da uno dei prodotti che almeno qualche anno fa era di punta nella nostra industria regionale e nazionale, lo zucchero. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Siamo in piena stagione saccarifera e quindi oggi parliamo di zucchero. L'inaugurazione di un impianto di produzione di biogas dai residui della lavorazione delle barbabietole nello stabilimento di Pontelongo in provincia di Padova ci ha dato l'occasione di incontrare Stefano Montanari, direttore di CoproB, la cooperativa dei produttori bieticoli che oggi gestisce due dei quattro impianti rimasti in Italia dopo la riforma del settore, che ha comportato negli ultimi anni la chiusura di ben 15 dei 19 zuccherifici attivi nel nostro paese. Nel Veneto si produce zucchero ormai solo a Pontelongo e in uno stabilimento storico inaugurato nel 1910 e che ha da poco subito il cosiddetto revamping. Qui si produce anche l'unico zucchero che si può definire 100% italiano. Dottor Montanari, è possibile capire qual è la situazione dello zucchero oggi? Sappiamo che sono stati chiusi negli ultimi anni la stragrande maggioranza degli stabilimenti italiani, che il 2017 sarà un anno un po' critico. Cosa è successo e cosa sta succedendo in questo settore che è stato anche molto importante per il Veneto nel passato? Allora, fino a questo momento, per inquadrare il tema zucchero, la produzione dello zucchero in Europa era regolamentata da quote produttive. Queste quote produttive nascono dall'epoca napoleonica e servono a garantire i grandi investimenti che vanno fatti negli zuccherifici di poter essere agibili e di poter avere stabilimenti che ancora funzionano. Nel 2017 queste quote produttive non ci saranno più. Tutti i produttori potranno produrre la quantità di zucchero che ritengono opportuna, lo potranno commercializzare. La filiera italiana è al servizio di un paese che consuma 1.700.000 tonnellate di zucchero, sono sostanzialmente tutte tonnellate di zucchero da barbabietola, la canna da zucchero ha un mercato molto ridotto. Oggi in Italia ci sono ancora quattro zuccherifici, l'Italia si serve molto dai paesi europei o dagli altri paesi del mondo, il problema del 2017 è se ci sarà la sostenibilità della filiera bieticola saccarifera italiana, più in particolare della filiera bieticola saccarifera siamo in Veneto, che produce zucchero, che produce barbabietole e che lo trasforma presso lo zuccherificio di Pontelongo. Attualmente quindi la produzione italiana non è sufficiente a soddisfare la richiesta delle stesse Italia? No, attualmente la produzione italiana copre circa il 30% delle esigenze del mercato italiano, che non è fatto solo dallo zucchero che si compra nei supermercati, ma è fatto soprattutto in larga parte dallo zucchero che viene utilizzato dalle grandi aziende agroalimentari italiane. Perché allora è stato necessario chiudere tutti questi stabilimenti? Proprio per un problema di mercato o per questioni di politica agricola comunitaria? Si è trattato di una operazione che l'Europa ha intrapreso sulla base degli accordi commerciali a livello mondiale. L'Europa era un paese che produceva più zucchero di quello che consumava e lo esportava verso i restanti paesi del mondo. Ha invertito e ha scambiato commercialmente col mondo questa posizione, l'Europa è diventata una regione mondiale che non è più in grado di produrre zucchero a sufficienza per se stessa e ha quindi aperto alle importazioni di zucchero dai paesi più poveri nell'ambito di questi scambi commerciali. Questo ha comportato anche cali nei prezzi dello zucchero e quindi anche di sostenibilità poi di tutta la filiera? Uno degli argomenti portati a sostegno della riforma del 2006 fu proprio il fatto che il prezzo mondiale dello zucchero che si vede in borsa a New York o a Londra è più basso del prezzo che viene praticato sul mercato europeo. Questa è stata la leva per spingere fortemente al cambiamento e alla riforma del mercato europeo dello zucchero. Veniamo alla vostra cooperativa. Quali sono i dati, qual è l'attività, la mole di attività che riuscite a realizzare? Questa è una cooperativa, è un gruppo guidato da una grossa cooperativa, una cooperativa di 5.300 agricoltori che praticano la bieticoltura, che ha due zuccherifici in Italia, uno a Minerbi in provincia di Bologna e uno, questo, di Pontelongo in provincia di Padova. Questa situazione sociale che abbiamo in cooperativa dimostra il grande interesse della cooperativa verso lo zucchero. Sono i suoi stessi soci che coltivano le bietole, che le portano nei due zuccherifici della cooperativa e conseguentemente possiamo dire realmente che l'agricoltore che fa la barbabietola vende direttamente sul mercato lo zucchero. Questa è l'importanza fondamentale della nostra filiera. A Pontelongo, ma anche negli altri impianti che voi avete, anche quelli che avete dismesso, avete fatto delle scelte sul piano energetico, quindi sia di riconversione sia anche di biogas per utilizzare i residui, gli scarti, le polpe della barbabietola. Qual è l'importanza di questi interventi? Allora, il risultato di queste due azioni che lei ha ricordato è lo stesso, cioè produrre energia elettrica da fonte rinnovabile. La motivazione delle due azioni è differente. Negli ex zuccherifici, e qui parliamo di Porto Viro in provincia di Rovigo e poi a Finale Emilia in provincia di Modena, stiamo per realizzare due grosse centrali che produrranno energia elettrica utilizzando biomasse agricole. Bruceremo biomasse agricole, la chiave è non vogliamo utilizzare colture dedicate, ovvero ne utilizzeremo in minima parte, ma vogliamo recuperare tutti gli scarti delle altre lavorazioni agricole. I biogas sono un tema ancora più forte, ancora più legato al sostegno alla bieticoltura. Utilizzando un sottoprodotto della barbabietola per far andare i nostri biogas, cerchiamo di valorizzare al massimo quello che è un prodotto della terra di cui niente va scartato. Ci fermiamo per qualche momento, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Forza di gravità. Bring me back tonight when you così intenso dal profondo sale su fino all'estasi. You're drowning in the deep for me. Don't fight it, just let it be. Fino all'estasi. Now your desire is pulling me. Our love is like gravity. It's gravity, baby. Tu che mi dai vita completamente, calmami di corpo, pretendimi. Take control and show me how it feels to go from heaven up to ecstasy. Sento ogni battito del tuo cuore stringere i miei sensi immobili. It's more than just a fantasy come true. I feel your love rising from deep inside of me, up to ecstasy. Fino all'estasi, up to ecstasy. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando con Stefano Montanari, direttore generale di CoproB, cooperativa di produttori bieticoli. Guardando al futuro, qual è il futuro del settore e poi conviene che un agricoltore investa ancora pianti barbabietole nel proprio terreno oppure è una cosa che andrà a scomparire? Allora, un imprenditore agricolo ritengo che se va a osservare la remuneratività delle varie colture non ha difficoltà a individuare nella barbabietola un prodotto agricolo che gli dà un reddito certo continuativo, una sorta di obbligazione rispetto alla speculazione in azioni che uno può fare in borsa. E per quanto invece riguarda il futuro della filiera, è difficile oggi delineare quale sarà il futuro della filiera. Possiamo dire che possiamo delineare l'atteggiamento della cooperativa, nel senso che ci stiamo preparando e lo stiamo facendo molto molto molto velocemente a competere fortemente sul mercato col nostro prodotto zucchero a fronte di coloro che tenteranno in tutti i modi di prendere il mercato italiano. Cito Pontelongo perché credo che i consumatori possano apprezzare Pontelongo in particolare, perché a Pontelongo si produce e si confeziona lo zucchero 100% italiano, che è l'unico zucchero prodotto in Italia che a questo marchio può essere certificato di sicura origine agricola italiana. Ringraziamo il dottor Stefano Montanari e come di consueto voltiamo pagina e passiamo ad alcune notizie. Partiamo dall'Europa. La Commissione europea ha lanciato una consultazione online sul ruolo dell'agricoltura familiare. Tutti i cittadini, le organizzazioni e le autorità pubbliche nell'Unione europea interessate al tema sono invitati a partecipare. La consultazione scadrà il prossimo 11 ottobre e si propone di raccogliere contributi in vista della conferenza europea sull'agricoltura familiare, un dialogo verso un'agricoltura più sostenibile e resiliente in Europa e nel mondo, in programma il 29 di novembre. L'evento si svolgerà nel contesto della dichiarazione del 2014 delle Nazioni Unite come anno internazionale dell'agricoltura familiare. Per informazioni, per sapere come partecipare a questa consultazione, si può andare sul sito internet ec.europa.eu/yourvoice. Restando in Europa, la Commissione europea ha approvato anche la richiesta di iscrizione nella lista delle indicazioni geografiche protette IGP delle trote del Trentino, attribuita ai pesci salmonidi appartenenti alle specie trota iridea allevati all'interno del territorio della provincia autonoma di Trento e nel comune di Bagolino in provincia di Brescia. In queste zone la pratica dell'allevamento in vasca delle trote è molto antica e risale al XIX secolo. Al momento del consumo queste trote devono presentare un dorso verdastro con una fascia rosea su entrambi i fianchi e ventre biancastro con macchiette scure sparse sul corpo. La IGP trote del Trentino si distingue anche per un contenuto di grassi molto ridotti rispetto ad altre specie di trote. Dal 25 settembre al 5 ottobre a Marano Vicentino si tiene la prima edizione del Festival del Pane, Panis Marano, Arte, Tecnologia e Passione. Il festival in questa località, nota più che altro per la farina di mais marano più che per il frumento, è perché qui hanno sede importanti imprese costruttrici di macchine per fare il pane. In programma vi sono degustazioni e dimostrazioni di cottura in forno storico, visite ai forni e ai mulini, visite alle aziende Sottoriva e Pietro Berto e le tre conferenze in auditorium Pane e Fame, lo scandalo dell'umanità all'inizio del terzo millennio, in programma domenica 29 settembre alle ore 16:30, Consumo del pane in Italia e caratteristiche nutrizionali a cura del Censis di Roma alle ore 11 di martedì 1 ottobre E infine la contraffazione industriale, un fenomeno invincibile, alle ore 15 di sabato 5 a Marano Vicentino. Domenica 6 ottobre, invece, all'azienda agricola Borgo Luce di Susegana, gli appassionati di trattori d'epoca dedicano una giornata alla storia della rattura per raccontare la sua evoluzione con gli strumenti che l'hanno segnata. Dalle ore 10 alle 17, nel centro aziendale di Mandre, si potranno ammirare in esposizione 50 macchine agricole, dall'aratro ai trattori di ultima generazione. Tra le stanze di casa Rocca Gelsa si può poi fare un viaggio nel tempo visitando la ricostruzione della vita e dei mestieri di inizio Novecento con gli ambienti della casa contadina, un percorso dedicato alla lavorazione del legno e un'esposizione di strumenti utilizzati a inizio del secolo scorso dagli artigiani e dalle massaie. Anche per oggi è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio la prossima settimana e se volete ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.